essere e benessere di Nicoletta Carbone. Eccoci, sono le 11:09, finalmente insieme abbiamo Paolo Corleoni in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione, insomma noi ci siamo e con noi naturalmente il nostro sommario. Occhio al ginocchio, alcol e anziani, una relazione pericolosa, HPV e infertilità maschile. Tonde, ossute, cicciottelle, grandi, piccole, dritte o storte, giovani o vecchie, flaccide o toniche, rumoroso, silenziose, in forma o doloranti, cari amici, oggi fuori le ginocchia. Oggi sono proprio loro le protagoniste della nostra puntata, se volete parlarne e raccontarvecele, 800 24 0024. Ecco le informazioni che mi dovete dare. La prima riguarda il loro aspetto, come sono fatte, come le vedete. Poi mi servono i riferimenti anagrafici. Aggiungiamo anche il tipo di attività o, se preferite, lavoro a cui sono sottoposte e gli sforzi che devono sostenere per essere dirette, i chili che devono portarsi in giro. Quindi datevi subito da fare, chiamateci al nostro numero verde, potete come sempre scriverci i messaggi al 349-238-6666. Qui in studio con me è tornato a trovarci il professor Roberto D'Anchise, primario ortopedico all'Istituto Scientifico Galeazzi di Milano. Professore, buongiorno. Buongiorno a tutti. Professor D'Anchise, cosa mette più a rischio le nostre ginocchia? L'anatomia, gli anni, l'attività, i chili di troppo? Tutto. Aia, siamo sì, ben messi. Cominciamo bene. Direi forse toglierei gli anni, nel senso che gli anni hanno un significato nel momento in cui c'è già una patologia di base. Però tutte le volte che si parla di ginocchio dobbiamo ricordare che l'anatomia è certamente l'elemento che mette a maggior rischio il nostro ginocchio. Perché? Perché è fatta male, l'articolazione è fatta male. Nel senso che ha delle superfici rotonde, che sono quelle della parte finale del femore, la parte, una delle parti articolari del ginocchio, che si appoggia su una superficie piatta, quindi per definizione è un'articolazione non congruente. Per mettere insieme tutto questo, per far sì che diventi stabile, ci sono legamenti, ci sono menischi che fanno sì che l'articolazione possa funzionare bene con una stabilità. In più ricordiamoci che il ginocchio, come l'anca e come la caviglia, sono articolazioni portanti, quindi ci portano a spasso, e quindi qualsiasi alterazione della normalità si risente, viene ad essere molto più grave, perché devono portare a spasso. In questo senso i chili, nel momento in cui noi abbiamo qualche cosa che non funziona, pesano. Possono avere una loro influenza, certamente. Professor D'Anchise, però ci sarà qualcosa che protegge le nostre ginocchia, sennò tutto rema contro. La fortuna è che tutto vada bene, nel senso che c'è solo una prevenzione, nel senso che se il ginocchio funziona bene tutta la vita. Se ci sono intoppi, dobbiamo mettere a punto tutti gli accorgimenti possibili per ridurre il rischio che questo intoppo alteri la normale funzionale del ginocchio. Quindi, professore, noi possiamo dire ai nostri amici da casa: se avete le ginocchia belle, sane, forti, funzionanti, perfette, chiamateci. Non chiamate. Perché ci raccontate come state, come vi portano in giro. E comunque, professore, lei può dare delle indicazioni per mantenere il più a lungo possibile. Certo. No? Certo. Questa fortuna. Se invece le vostre ginocchia sono un po' sofferenti, hanno subito traumi, certo, perché questo lei dice la fortuna conta, se ad esempio a fare nelle spese sono stati i legamenti, il menisco, non preoccupatevi, perché la speranza, risolviamo tutto. Certo. 824 0024, fuori le ginocchia. Una mela al giorno. L'alcol dà alla testa e noi diamo i numeri dell'alcol. Proviamo infatti a tirare un po' le somme proprio oggi, in occasione della nona edizione dell'Alcol Prevention Day, la giornata della prevenzione dell'abuso di alcol. In linea con noi è tornato a trovarci il professor Emanuele Scafato, direttore dell'Osservatorio Nazionale Alcol dell'Istituto Superiore di Sanità. Professor Scafato, bentornato e grazie. Buongiorno a tutti, bentrovati. Professore, allora partiamo proprio dai numeri. I numeri, diciamo che complessivamente risulta consolidata una tendenza che noi oramai da anni andiamo a registrare. vorremmo essere più benevoli, ma purtroppo la realtà è che gli italiani si sono oramai orientati, almeno il 25%, quindi almeno un uomo su quattro, verso un consumo che viene considerato dagli organismi di tutela della salute, come l'OMS e come l'Istituto Superiore di Sanità, come consumatori a rischio, come consumi a rischio. È ovvio che quando si va a guardare questi fenomeni si va a vedere se ci possano essere delle componenti culturali particolari, tipo ad esempio i giovani che seguono dei modelli cosiddetti di binge drinking, una terminologia a cui ci siamo tristemente abituati, il bere per ubriacarsi. Più di 4 milioni di italiani si ubriacano nel corso dell'anno, di cui 600.000 praticamente sono giovani e giovanissimi anche al di sotto dell'età minima legale. Ed è chiaramente un fatto anche preoccupante il fenomeno che invece sta, probabilmente lo faceva anche in passato, ma oggi è ancora più evidente, sta invece contaminando anche la componente anziana. Quindi, professor Scafato, massima allerta e massima attenzione sui giovanissimi, ma la giornata di oggi punta l'attenzione proprio sugli anziani, sugli over 65. Professor Scafato, perché? Ma probabilmente diciamo che il modello culturale del maschio italiano è sempre stato improntato ad un consumo sostenuto. Gli anziani non sapevano e non sanno che non devono consumare più di un bicchiere di bevanda alcolica al giorno, perché dopo i 65 anni il metabolismo diventa come quello di un adolescente. È una magra consolazione, ma non si possono superare i 12 grammi di alcol, per cui quando si superano i 65 anni bisognerebbe automaticamente ridurre il consumo di alcolici consumati nel corso della giornata. E questo è ancora più vero per le donne, che molto spesso vivono in uno stato di un po' più isolate, magari in uno stato di vedovanza oppure di non partecipazione sociale, e che hanno appreso il modello del bere dal proprio partner, quindi sicuramente un modello maschile che però non è consigliabile per una donna e soprattutto per un'anziana che normalmente consuma prima di tutto più farmaci, che sconsigliano ovviamente l'uso dell'alcol per le interferenze e per le potenzialità dannose che può comportare, e poi perché hanno delle malattie che sconsigliano appunto l'uso dell'alcol. Quindi rivolgersi sempre al medico per sapere se si può o non consumare anche moderate quantità di alcol, perché altrimenti andiamo incontro a dei problemi che sono ancora maggiori di quelli che andiamo a rilevare nella pratica ambulatoriale. Poi, professore, direi dai numeri andiamo a delle indicazioni pratiche. L'invito di oggi è cercare di capire che posto l'alcol occupa nella nostra vita. Ci sono tre domande molto semplici che possono aiutarci a inquadrare bene la situazione. Professore. Ma normalmente si chiede, il medico chiede, dovrebbe chiedere quanto consuma, con che frequenza si consuma e se capita di concentrare in un'unica occasione più di 5 o 6 bevande alcoliche. È ovvio che questo strumento, che si chiama Audit, è possibile ovviamente nelle disponibilità dei medici che lo devono utilizzare. Se la positività al test, si tratta di punteggi, superiore a 4 per le donne, superiore a 5 per i maschi, si consiglia appunto di approfondire il caso per vedere se è proprio il caso di intervenire attraverso un colloquio motivazionale e attraverso magari un approfondimento clinico. La parola d'ordine è responsabilità da parte di tutti, perché nella moderazione c'è sempre la virtù. Professor Scafato, prima di salutarla invito gli ascoltatori a visitare il sito di Epicentro e ricordo agli amici da casa che possono effettuare questa sorta di test, l'audit, andando anche sul nostro sito, dove abbiamo proprio riportato nella pagina di Essere Benessere queste tre domande con i relativi punteggi. Professor Scafato, buona giornata. Grazie a voi e a tutti. Torniamo ad occuparci delle nostre ginocchia, professor D'Anchisi. Forma, anni, attività, lei ha detto gli anni non tanto. Cerchiamo di capire quali sono però i nemici del buon funzionamento delle nostre ginocchia e io tornerei sulle nostre parole chiave, inizierei dalla forma. Ci sono ginocchia che sono questo più esposte. È sicuramente un elemento molto importante. È vero che gli anni non hanno significato se tutto va bene, ma se le nostre ginocchia partono male, ahimè, purtroppo il rischio è che nel tempo si facciano vive in maniera negativa. Voglio dire che se il nostro ginocchio è in asse e dritto, il carico del peso viene ad essere distribuito uniformemente e tutto va bene. Se però noi abbiamo sfortunatamente come morfologia, come aspetto, la gamba storta o a X, quindi col ginocchio in fuori, o a cavallerizzo col ginocchio in dentro, quindi valgo o varo, ecco che negli anni la distribuzione del carico anomala comporta un sovraccarico in una delle due parti del ginocchio, che vuol dire usura della cartilagine, che è il tessuto che riveste le superfici articolari, e quindi artrosi, perché non abbiamo più le superfici lisce come dovrebbe essere quando c'è la, come dovrebbero essere quando c'è la cartilagine, e abbiamo delle superfici ruvide che fanno male. Certo. E questa è l'artrosi, e questo è un elemento sicuramente di partenza negativo. Quando si dice gli anni, il logorio della vita moderna, anche le nostre ginocchia si logorano, e la parte del nostro ginocchio che si logora di più è sicuramente la cartilagine, giusto? Certo, questo, diciamo, vi è un invecchiamento fisiologico che però, se tutto è normale, non crea delle grosse difficoltà. È chiaro che se all'invecchiamento fisiologico aggiungiamo anche un'anomalia di forma, ecco che le problematiche ci sono. Ci sono alcuni segnali che non vanno sottovalutati, che il nostro ginocchio ci manda. Arrivano tanti messaggi, voglio leggerne alcuni. Quando mi alzo sento le ginocchia un po' rigide e indolenzite. Sono un ciclista amatoriale e ho 45 anni. Ha fatto bene il compito, Marco, perché ci ha dato tutte le indicazioni. Sì, diciamo che i 45 anni cominciano a essere è già un'età in cui l'articolazione un pochino si logora, e un sovraccarico, se lui dice sono un ciclista, vuol dire che va tanto in bicicletta, non è che va a lavoro e basta, questo vuol dire che c'è un utilizzo importante dell'articolazione, e questo un pochino può cominciare a dare delle problematiche all'articolazione. Torneremo sullo sport amico delle nostre ginocchia, ma voglio leggerle un messaggio che mi sembra descrive una situazione opposta a quella di Marco. Carla scrive: se mi piego le mie ginocchia si lamentano in coppia, ho 51 anni, sono magra e poco sportiva. Poco, allora, sportiva non so se voglia dire proprio dire assolutamente che non fa niente, sedentaria. Perché noi diciamo sempre, appunto, mascheriamo, mascheriamo la nostra pigrizia dietro sì faccio poco sport. Sì. Diciamo che l'elemento fondamentale, un messaggio che io amo sempre lanciare: se le ginocchia si fanno vive come rumore ma non fanno male, non ci dobbiamo preoccupare. Quindi se questo farsi vivo vuol dire che scricchiolano, esistono un pochino, dobbiamo far finta di niente. Anche perché, e questo è un altro elemento secondo me importante, qualche volta quando cominciamo ad approfondire vengono fuori anche delle situazioni che non hanno significato, ma che creano un'allerta da parte del medico, da parte del paziente, e la situazione un pochino si può involvere. No, Roberta ci ha mandato un messaggio che voglio leggervi perché è divertente. 40 anni, 95 kg, muscolose, leggermente valghe, non doloranti, 3 volte alla settimana box, mai avuto trauma. Perché sono più rumorose di una caffettiera? Buona giornata! Non lo so, non lo so. Il rumore è veramente uno degli elementi che personalmente non mi spiego se non è doloroso. Marco ci chiama dalla provincia di Arezzo. Buongiorno Marco. Buongiorno. La mia domanda riguarda forse non proprio il ginocchio, ma mi sono permesso di chiamare perché ho avuto un trauma vicino al ginocchio nella regione della tibia superiore, lateralmente, e è un trauma sportivo. Sì. Facendo judo 10 giorni fa. Me ne sono accorto soltanto 8 giorni fa che questo dolore, questo gonfiore, che è tuttora una pallina che riesco a toccare, aveva causato anche un edema su tutto il polpaccio. E mi sono accorto che premendo con il dito sul polpaccio rimaneva una fossetta, e quindi questo credo che sia proprio un edema. E tutto diagnosi perfetta, è un edema. Bravo Marco! No, comunque senta, da quello che mi racconta lei sembra veramente solo, sembra le conseguenze della botta, quindi probabilmente è un piccolo ematoma, e la conferma di la presenza dell'edema è un po' una conferma di un ematoma che ha creato un po' di difficoltà di circolazione, ma io credo di non mi preoccuperei. L'unica cosa, se questa pallina dovesse persistere per molto tempo, qualche volta gli ematomi, diciamo noi, si organizzano, cioè non vanno più via, e se dà un fastidio si devono portare via. Professore Marco, mi dà lo spunto per farle una domanda. Prendo una botta al ginocchio facendo attività sportiva, cadendo eccetera, il ginocchio è gonfio, vedo apparire il classico livido, io faccio qualcosa o devo fare degli esami? Aspetta. Per capire, si aspetta. Se non c'è una sintomatologia significativa, per cui vale sempre la pena di fare una radiografia, perché alle volte ci sono delle micro, delle piccole fratturine, allora bisogna stare un po' a riposo, però la botta non ha significato nella stragrande maggioranza dei casi. Un po' di ghiaccio. Un po' di ghiaccio, un po' di riposo. E magari, voilà, ripeto, al limite una radiografia, perché non ci sfugga qualche cosa di più, perché importante. Perché poi se si va dal medico qualcosa poi trova. Molto spesso sì. Ecco, almeno. Quindi insomma andiamo proprio. Loredana, dalla provincia di Trento, vediamo che cosa ci racconta delle sue ginocchia. Loredana, benvenuta. Buongiorno. Dunque, io sono reduce da un intervento di microfratture di Stendman da 15 giorni. La diagnosi era lesione degenerativa corno posteriore menisco mediale condropatia del terzo quarto grado, condilo femorale mediale ginocchio sinistro. Ecco, scusa, qui andiamo Loredana, proprio nel ecco, particolare. No, ma poi io voglio dire, perché dovete scrivere delle cose così difficili? Perché che poi una alla fine, ne parlavo proprio con Giacomo recentemente del Magnifico Trio, che ci ha letto tutta questa diagnosi con tutte queste parole difficili, alla fine lieve artrosi. Allora dillo subito. No, allora ecco, dobbiamo distinguere. È giusto scrivere quello che c'è, perché il certificato di dimissione va in mano, certo, al medico, ma è fondamentale che il medico spieghi che cosa ecco, vuol dire questo. È lì che volevo arrivare, la mia è un po' una provocazione, d'accordo, perché poi alla fine Loredana, quindi una diagnosi con tutte parole quasi impronunciabili, difficilissimo, alla fine lei che cosa, come stai, che cosa vuole chiedere al professore? Allora, io al momento sono ferma, ovviamente per 4 settimane non devo caricare, quindi mi muovo in stampelle. Il dottore mi ha spiegato più o meno tutto l'intervento, cosa è stato, e così. Quindi è stato bravo. Volevo sapere, allora, io sono reduce da un 30 anni di su e giù per le montagne. Quindi le gambe le ha fatte lavorare. Venga la domanda, Loredana. Niente, allora, cosa mi aspetta da adesso in poi? Cioè, allora, io sono cuoca e quindi sono sempre in piedi, lavoro, sposto pesi. E cosa mi aspetta da adesso in poi? Allora, la cosa importante è sapere la dimensione del danno della cartilagine. Diciamo che fino a 1-2 centimetri al massimo quadrati, cioè di superficie interessata, le microfratture nel breve tempo almeno sembrano dare degli ottimi risultati. Purtroppo non si ricrea una superficie cartilaginea nuova, valida, e quindi c'è il rischio che nel tempo debba farsi ancora qualche cosa. Riabilitazione per Loredana? Riabilitazione, dunque, un carico assoluto, cioè non caricare per nulla non è corretto. Secondo me 10-15 kg vale la pena di caricare. Per sapere cosa vuol dire 10-15 kg si mette il piede su una bilancia e si capisce quale può essere il peso che noi possiamo dare. Riabilitazione muscolare già da adesso molto importante, e poi recuperare progressivamente con una riabilitazione che deve essere prevalentemente in scarico, cioè non salti, non step, ma prevalentemente in scarico, è elemento fondamentale in tutti i casi di riabilitazione. La riabilitazione non deve far male, né durante, né subito dopo, e neanche il giorno dopo. Se fa male, stiamo facendo di più di quello che il nostro ginocchio può tollerare, e quindi dobbiamo ridurre. Abbiamo ancora il tempo, no? Gianfranco da Treviso, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Gianfranco, mi accompagna a sentire i mercati e il meteo, poi torniamo insieme? Mi fa da cavaliere? Sì, d'accordo. Ok. Gianfranco, buongiorno, ribuongiorno, eccomi a lei. Allora, innanzitutto complimenti per la trasmissione. Grazie. Io sono un giovanotto, cinquantenne, che compie 50 anni proprio oggi. Bambino. Magnifico! Ma ieri anche doveva intervenire, che abbiamo parlato dei 50 anni. Lo so, mi dispiace, sono perso. Puoi riascoltarla, comunque era perfettamente in target. Bene, Gianfranco, allora. Niente, io sono, mi definisco uno sportivo, pratico atletica leggera, 10-12 km un giorno sì, un giorno no, qualche gara amatoriale, è circa da 10-12 anni. E morale della favola, da alcuni mesi ho accusato dei dolori, delle dolenzie a livello del ginocchio di destra. Premessa che, come ha detto il professore, io ho un arto un po' più piccolo, cioè più corto dell'altro. Però ho usato dei correttori, dei plantari, sono andato da un centro e non ho mai avuto grandi problemi a livello delle ginocchia. Se non che questo dolore è continuato, sono andato a farmi una risonanza magnetica, la quale non mi ha trovato nessuna alterazione, se non iniziale alterazione di natura degenerativa gonatrosica con note di condropatia, in particolare sul versante femoro-tibiale mediale. Morale della favola, sono messo a riposo, sono andato a fare delle infiltrazioni con acido glicuronico, che mi hanno detto che bene o male non fa. Domanda, devo appendere le scarpe al chiodo? Devo rifarmi? Ne appenda solo una, nel senso che riduca un pochino le sue attività, nel senso che l'attività che le svolge, quindi la corsa, è sicuramente molto traumatizzante per il ginocchio. Ora, quindi, non voglio dire di smetterne, però questi sono campanelli d'allarme che le dovrebbero far capire che forse ridurre un pochino, magari dedicando un po' più di tempo alla bicicletta, anche se magari non le piace, piuttosto che al nuoto, forse sarebbe meglio. Gianfranco, parleremo anche di attività fisica, cosa che facciamo regolarmente ogni venerdì, ma il consiglio che lei ha dato a Gianfranco è un avvertimento, il troppo non va bene. Il troppo, certo, non va bene. Per ogni tipo di ginocchio o solo per le ginocchia? Beh, diciamo che difficilmente chi ha fatto tantissimo attività fisica non ha problemi, è molto difficile, però io dico sempre che la vita dobbiamo anche viverla, quindi non è che uno debba tormentarsi. Ridurre consente di fare le cose che ci piacciono senza dover rinunciare completamente e sperare che le cose vadano bene. D'altra parte non c'è una prevenzione per una situazione come questa. E invece lei aveva parlato di artrosi ed è, bene o male, tutti lo sappiamo, no? E tutti noi, gran parte di noi, la vivono un po' come una spada di Damocle. Siamo anche un po' rassegnati, no? Che con gli anni qualche cosa lì intorno, certo, succederà. Ma chi rischia di più, uomini o donne? Donne. Parliamo di ginocchio. Sedentari o sedentari sportivi? Riescono molto meno, evidentemente, sportivi molto di più. Ecco, direi che il messaggio che possiamo lanciare è questo. Prima di tutto, se abbiamo delle situazioni di iniziale sofferenza articolare artrosica, può essere utile pensare a degli interventi chirurgici di prevenzione. Nel momento in cui, altro messaggio importante, le cose non dovessero andare bene, teniamo presente che oggi gli interventi chirurgici di protesi sono degli interventi che ci danno dei risultati molto buoni, direi anche nelle persone relativamente giovani. E attenzione che protesi non vuol dire che si butta via il ginocchio. Io dico sempre, mi ricordo sempre di quella paziente che mi ha chiesto: ma perché la chiamate protesi, che mi spaventa, quando invece è un rivestimento, cioè togliamo la superficie cartilaginea rovinata, abbiamo detto non più liscia, e mettiamo un materiale metallo e plastica che rende di nuovo lisce le superfici articolari e consentono all'articolazione di muovere bene senza dolore. Mio figlio, 14 anni, aveva dolori dopo l'attività sportiva, con escrescenze nella parte inferiore, rilevate con esami anche microfratture e infiammazione. È il riposo l'unico rimedio? Vorrei infatti recuperare questo messaggio per i ragazzini. Questa è la tipica malattia dell'adolescente, che si chiama apofisite tibiale anteriore o malattia di Osgood-Schlatter, nome bruttissimo, tanto per dire che guarisce semplice. Sempre con rarissimi casi di complicazione. L'unica alternativa è il riposo. Mi veniva in mente, parlando dell'età, che c'è una patologia che si ha nei giovanissimi e nelle persone over 60, che è una, si chiama osteocondrite nell'adolescente e osteonecrosi nella persona anziana o adulta, definiamola così, ed è divertente questa similitudine con un intervallo in mezzo di pazienti che non hanno mai questo tipo di patologia e che va trattata poi mediamente con un riposo. Prima di salutare Lorenzo, che intanto saluto. Lorenzo, buongiorno. Buongiorno. Volevo aprire rapidamente una parentesi sull'attività sportiva più rispettosa del nostro ginocchio, perché ho tanti messaggi e allora li riassumo. Meglio la corsa o la bici? Bici. La palestra o il golf? Tutti e due. Wow. Attenzione però, che palestra, perché palestra vuol dire tutto. Palestra vuol dire, per esempio, lo step non è sicuramente un'attività fisica favorevole all'articolazione, ma il concetto di fondo è che se tutto va fatto con buon senso si può fare tutto quello che si vuole. Tennis o calcetto? L'ultima? Tennis forse è meno rischioso. Però attenzione, qui parliamo di traumi, non di usura. Cioè il tennis ha meno rischio di traumi, il calcetto non è che faccia male di per sé, però, è che è più rischioso. Sì, perché si fanno qualcuno si fa male. Qualcuno si fa soprattutto male, ci danno da lavorare. Chi, vero? Chi, sì. Chi gioca a calcetto dopo una certa età. Ma anche giovani. Anche giovani. Lorenzo, da Rovigo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Lei gioca a calcetto? Io gioco a calcio, anche a calcetto qualche volta, soprattutto d'estate. E come va? Ma ultimamente un po' male. Ma come mai? Io devo premettere che gioco a calcio da quando ho 12 anni, adesso ne ho 34. Mm. E mi alleno costantemente due volte alla settimana. E ultimamente ho iniziato ad avere dei problemi alle ginocchia, tutte e due. Sì. Nel senso che, finito l'allenamento, il giorno dopo ho delle rigidità nella parte alta del ginocchio, non riesco a piegarlo completamente, sento come una rigidità molto intensa, come se il ginocchio fosse gonfio, e sento proprio tirare nella parte alta della rotula, sì. Proprio nella parte alta del ginocchio. Dopo 2-3 giorni di riposo mi passa, faccio l'allenamento nuovamente e inizia ancora questo fastidioso sintomo, ecco, sì. Che non mi permette poi di camminare bene. Non ho allora dolore, però, nessun dolore. Allora, potrebbe essere un problema cartilagineo, quindi faccia una risonanza e si faccia vedere da uno specialista. L'altro elemento importante, ricordiamoci che quando noi facciamo un'attività fisica che è un'attività di rinforzo muscolare, dobbiamo sempre fare dello stretching. Quindi forse facendo un po' più stretching al termine della sua partita e anche durante i giorni in cui non si allena, questa situazione potrebbe migliorare. Cristina invece ci chiama dalla provincia di Milano. Cristina, buongiorno. Buongiorno a voi e complimenti per la trasmissione. Senta, no, in parte penso di avere già avuto qualche risposta e soprattutto tante informazioni, però io volevo dire, accovacciandomi, cioè piegandomi, entrambe le mie ginocchia fanno male. Non è solamente lo scricchiolio, che vabbè, questo dice certo. C'è solo quello, va bene sì. Tutto. Se invece fanno male proprio nella parte posteriore. Ah, dietro. Tanto è vero che ho avuto anche un rigonfiamento, prima da un ginocchio e poi da un altro, si era un po' come gonfiata. Dietro o davanti si è gonfiato? Dietro, sempre dietro. Sempre il medico dietro. Ero andata dal medico e mi ha detto, ma no, è un versamento, metti del ghiaccio, un po' di riposo, vabbè, di fatto si è rientrato, ma il mio male c'è sempre, quando io mi piego, se mi inginocchio niente, ma piegando, proprio accovacciandomi. Va mai al cinema lei? Sì, ci vado. Non le dà fastidio rimanere a lungo col ginocchio piegato? Sì, rimanere a lungo seduta non ce la faccio. Io devo muovermi, devo allungare le gambe, mi fa proprio sofferenza. Ecco, questo diciamo è uno dei segni, cosiddetto segno del cinema, come diciamo noi, che dimostra che probabilmente lei ha una sofferenza della cartilagine della rotula, e quando noi pieghiamo il ginocchio, se lei vede, se estende il ginocchio la rotula noi la possiamo muovere con le nostre mani. Se pieghiamo il ginocchio la rotula non si può muovere perché rimane fissa nell'articolazione, e questa cartilagine sofferente può creare delle problematiche, può creare dolore quando ci pieghiamo, quando rimaniamo a lungo col ginocchio piegato. Quindi faccia una risonanza magnetica, si faccia vedere. Perché quando sono seduta è più fastidio, non è dolore. Sì, il sì. Dolore io ce l'ho quando proprio mi piego, mi accovaccio. Ecco, tenga presente che in linea di massima, poi evidentemente le nostre informazioni sono sempre un po' generiche perché non vediamo il paziente, però forse un po' di riabilitazione muscolare in scarico fatta bene per il rinforzo del quadricipite potrebbe aiutarla. Prima di andare a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade, Edoardo, 42enne, nuotatore dilettante, barman professionista, ci scrive: perché dopo una pennica mi capita di svegliarmi con le ginocchia doloranti? Perché volevano dormire ancora. Per Ok, va bene, parliamo 824 dopo. 824-0024, strade, poi di nuovo insieme. Allora, professor D'Anchise, la pennichella fa lamentare le ginocchia. Io dicevo, ecco, che vogliono ancora dormire scherzando, perché invece questo è un segnale che non va sottovalutato, no? Sì, però vede, come sempre, quello che dicevamo prima, se è così è meglio fare niente, faccio finta di niente. Però, evidentemente, qualche volta durante mantenere, come si diceva prima, una stessa posizione, quindi immobile l'articolazione, se la situazione locale non è perfetta, può creare un po' di dolore. Andiamo invece a Firenze, perché c'è Claudio. Buongiorno, benvenuto, bentornato magari. No, Claudio, gli ho fatto tutta questa presentazione e Claudio mi è caduto. Abbiamo risposto probabilmente alla sua domanda. Vogliamo professor D'Anchise, invece sfatare, oppure no, me lo dica lei, quella relazione pericolosa tra ginocchia e tacchi? Non c'è nessun problema. Ecco, vero che possiamo assolutamente metterle? Assolutamente. Tacchi dai 4 ai 12, le ginocchia non so. Fanciulle? Tanti, perché noi riusciamo. Io vedo a spaziare. Per le mie amiche crescono sempre di più nonostante non siano più tanto giovani. Ecco, vede. Claudio da Firenze, buongiorno. Buongiorno. Io l'avevo presentato in pompa magna, lei è caduto, dov'era? Sì, infatti, è caduto, infatti, si è fatto male al ginocchio, no? Esatto, bisognerebbe fosse così. Claudio, che cosa le è successo? Allora, io ho sempre, innanzitutto, sempre giocato a calcio, ho sempre avuto le ginocchia avare e nel 96 sono stato operato ai legamenti, al legamento crociato anteriore. Dopo poco si è rotto di nuovo, nel 2004 ho avuto un'altra operazione sempre nella ricostruzione del legamento, nelle due occasioni mi è stato ricostruito in maniera diversa, ma a parte questo nel tempo io diciamo non sono stato troppo attento con la fisioterapia e questo so che è un errore, però adesso il ginocchio si sta piegando sempre di più, il destro, quello varo appunto, che poi vari sono tutti e due. Lunedì ho fatto delle radiografie perché il professore che mi ha operato mi ha detto che appunto voleva dargli un'occhiata perché mi si stavano piegando un po' troppo le gambe. Sì. E lunedì il radiologo, così pur parlè, mi ha detto: sì, hai un ginocchio che sembra il nonno dell'altro. Praticamente anche il professore che mi operò la seconda operazione mi disse che lui aveva fatto il possibile per rendere la mia cartilagine, insomma, avevamo un po' messo a posto, però non ce l'aveva fatta. Comunque detto, insomma, che avevo una cartilagine distrutta. Insomma, Claudio, devo dire che le ginocchia non sono il suo punto di forza, diciamo così. No, il ginocchio destro assolutamente no, e volevo sapere, dato che ho sentito parlare di osteotomie per il varismo, per fermare questo varismo, e ho sentito parlare anche di altro, quale sarà per me la soluzione? Quanti anni ha, mi scusi? 39. Allora, sicuramente è molto giovane, diciamo che forse, nelle situazioni come la sua, in cui c'è una alterazione dell'asse, come dicevamo all'inizio, quindi questo ginocchio varo che è un po' da cavallerizzo, spiegare. Che va bene per il calcio. Che vero? Va molto bene per tutte le attività sportive, perché si gioca meglio, si corre meglio, però non facciamo confusione. Diciamo, nel suo caso, forse sarebbe stato meglio fare un'osteotomia sin dal primo intervento. La situazione di osteotomia è una situazione molto, un intervento da suggerire, tenendo presente però che l'osteotomia migliora la situazione locale, rallenta l'evoluzione artrosica, ma non fa guarire il ginocchio. Quindi purtroppo lei sarà un candidato, mi auguro fra 40 anni, a dover fare un intervento di protesi. Ecco, smetta di giocare a calcio però. Ah sì, eh? Eh sì. Vabbè, ogni tanto può farlo. Va bene. Allora, io invece adesso vorrei occuparmi proprio della estetica della ginocchia, perché magari funzionano assolutamente bene e però le vediamo un po' appesantite, si flaccide, si ingrossano. Ci sono dei trattamenti ad hoc di cui mi piacerebbe molto parlare, perché vedo che ci sono tante richieste, magari poi dedicheremo una puntata. Sì, ecco, molto importante questo che sta dicendo, perché tante volte il paziente dice: ho le ginocchia gonfie, che Per noi ginocchio gonfio vuol dire che c'è del liquido dentro l'articolazione, invece alle volte è solo una situazione di adipe, di grasso, comunque di conformazione dell'articolazione, quindi il ginocchio non è gonfio, è ma grassito, è solamente grasso e morbido. Fatto male, perché tante ginocchia sono fatte male, mica tutte sono belle come le tue. Ma grazie, perché allora 824 0024 ci ha chiamato Maurizio da Salerno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Maurizio. Allora, io vengo da diversi anni di problemi con un'artrite, artrite psoriasica che si è manifestata anche alle ginocchia con gonfiori. Maurizio, ci può dire l'età gentilmente? 45 anni. 45 anni. Gonfiori, decine di artrocentesi, eccetera. Adesso io ho risolto il problema infiammatorio da alcuni mesi, ho provato finalmente il farmaco giusto. E vorrei, come dire, ricominciare anche banalmente a camminare sulle mie ginocchia, perché per un po' di tempo non riuscivo nemmeno a fare questo, e poi magari a riprendere dell'attività sportiva. Sicuramente non potrò tornare in bicicletta, cosa che ho fatto fino a qualche anno fa. Volevo capire come mi misuro con questo mio passato dal punto di vista, come dire, ortopedico. Allora, l'artrite, quindi lei ha proprio un'artrite, che vuol dire infezione, diciamo, infiammazione dell'articolazione, che è diverso da artrosi, che vuol dire usura della cartilagine. L'artrite purtroppo è una patologia che non si può risolvere, quindi le sue cartilagini si sono consumate per questa artrite, che può essere psoriasica, reumatoide, ce ne sono tante. Si allora, affida a un reumatologo. Si affida al reumatologo e mi pare che lui abbia trovato una soluzione. Io direi che sempre con buon senso può riprendere a fare le attività che non le fanno male. Questo secondo me è l'elemento fondamentale. Noi possiamo fare quello che non ci crea problemi, ovviamente evitando corsa, salti, cioè le attività con il peso del corpo. Forse la bicicletta può darsi che lei possa riuscire, la camminata, la faccia, non è che debba rimanere immobile. Il nuoto, come sempre, potrebbe essere l'ideale. In linea abbiamo il professor Klinger. Buongiorno professore. Buongiorno Nicoletta. Direttore della seconda scuola di specializzazione in chirurgia plastica. Ciao. Non lo leggo più la sua qualifica, intanto la conosciamo. Professor esatto. Klinger, con il professor Danchise dicevamo, a volte le ginocchia ci sembrano, il mio paziente viene e dice ho le ginocchia che sono gonfie, in realtà sono ginocchia cicce. E il ginocchio tondo, tondeggiante, un po' cascante, devo dire che a noi donne non piace granché. E c'è qualche trattamento per rimetterlo un po' in forma? Beh, devo dire, qualche volta sono i colleghi ortopedici stessi che ci indirizzano delle pazienti, perché ci possono essere delle problematiche di tipo spiccatamente estetico oppure delle problematiche che addirittura in qualche modo possono influire sull'articolazione. E di base sono zone adipose nella parte mediana del ginocchio, intanto per intenderci quella in mezzo alle gambe, sì, quelle... che sfuma dal polpaccio fino verso l'interno delle cosce, che viene ipoaspirata con delle cannule sottili senza correre rischi particolari, facendo affidamento come sempre sulla capacità di retrazione della cute, che è elastica e quindi una volta sgrassata con dei piccoli tunnel tende a retrarre. Non è l'unica zona che interessa le donne nel ginocchio, Nicoletta. Lo so, lo dice a me. Ma voglio dire, c'è anche questa famigerata zona al di sopra della rotula. E davanti, sì, certo. Esatto, quella lì è una zona molto più delicata perché... devo dire che nei casi di adiposità veramente spiccata, certamente anche lì attraverso dei piccoli buchini al di sopra della rotula si può lipoaspirare e basta. Però nei casi invece in cui il problema è spiccatamente estetico, la zona sopra la rotula è una zona che tende a lasciare risultati meno belli, dove più facilmente si possono lasciare delle impressioni, come dire, delle pieghette che certamente non sono poi, non rendono il risultato di valore estetico buono. Insomma, anche perché dieta ed esercizio fisico sembra che lì non servono. Ebbene, non ci state, almeno il professor Klinger ci ha dato qualche soluzione. Qualche piccola soluzione, insomma, devo dire. Professore, la ringrazio per essere stato con noi. Grazie, le auguro buona giornata. Ciao, arrivederci. Volevo dedicare gli ultimi minuti di trasmissione ad un tema che viene spesso declinato al femminile, ma che coinvolge in egual misura anche l'altra metà del cielo. E vorrei parlare di HPV, un rischio grande per la salute di noi donne, perché sappiamo che è responsabile di un'alta percentuale di tumori dell'utero, ma che nell'uomo può minacciare la fertilità. Ci sono nuove evidenze di cui si discuterà in un convegno che si aprirà a Padova domani e in linea con noi abbiamo il professor Carlo Foresta, che è ordinario di patologia clinica all'Università di Padova. Professore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei. Professore, io le propongo, dato che siamo in chiusura, di lanciare il tema e di tornare ad affrontare con le nuove evidenze domani, perché se no non riusciamo a dedicare lo spazio adeguato per la comprensione di questo problema. Allora, l'HPV può essere un problema anche al maschile e può incidere sulla fertilità. Perché, professore? Perché nel liquido seminale è presente, è possibile trovare l'HPV e questo lo abbiamo dimostrato già lo scorso anno e adesso abbiamo visto che l'HPV quando è presente nel liquido seminale può aderire agli spermatozoi e questo comporta intanto una riduzione della motilità degli stessi. Il problema è molto più complesso, ma se lei lo vuole affrontare con domani io l'aspetto in chiusura e facciamo la seconda puntata perché presso il vostro centro avete fatto un passo in più. Professor Foresta, a domani quindi per la seconda puntata. Professor D'Anchise, grazie per essere stato grazie con noi. Le nostre ginocchia la ringraziano. Un grazie anche a voi che ci avete seguito. Appuntamento a domani dopo il giro delle 11. Buona giornata da Nicoletta.